adesso gira qua, metti la freccia che saliamo in città e guida bene che si sa che dietro la strettoia c'è un dosso. Non voglio finire nel fosso. Metti adesso, metti qua, rievoci il nastro che cantiamo a metà e canta bene, canta là, quella vecchia cassetta di Baglioni. Ne ha fatto viaggi perigliosi. Sappi la strada che fai, da oggi poi sarà il lavoro in corso. Che sia l'andata o il ritorno, avrai una pausa di conforto. Sappi la strada che fai, da oggi poi sarà il lavoro in corso. Costruiscono un pronto soccorso, sarà lì in caso di bisogno. Stai attento, guarda là, attento al limite di velocità. La fretta non è stata mai e non sarà mai buona consigliera. E nel consiglio della sera, ferma adesso, ferma qua, che voglio fare quattro passi in città. E sento dentro, sento già la vecchia nostalgia che mi riprende e sguscia come un serpente. Sappi la strada che fai, da oggi poi sarà il lavoro in corso. Costruiscono un pronto soccorso, sarà lì in caso di bisogno. Sappi la strada che fai, da oggi poi sarà il lavoro in corso. Che sia l'andata o il ritorno, avrai una pausa di conforto.